sentirsi così tra le tue mani, sulle tue labbra. Il sole sembra che passi di qui per riscaldare il nostro amore. Sembra che passi di qui per riscaldare.